Vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, come state? E dai, e state con Nico anche oggi per una chiacchierata insieme, per raccogliere tante informazioni utili, qualche consiglio per investire in salute, investire in benessere, che sono gli investimenti più importanti, quelli più preziosi, quelli che rendono di più. Allora, siete pronti? Sincronizziamo i nostri orologi. Dai che si parte! E perché soprattutto è tornato a trovarci il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'Università di Ferrara. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È autore di Un tempo per ogni cosa. Professor Manfredini, ho imparato la lezione, vede? Ho detto sincronizziamo gli orologi, non l'orologio. Ho notato. Ha notato, che eleganza. Ho notato che la frequentazione è della cultura cronobiologica. Eccola qua. È vero, abbiamo parlato tante volte assieme dell'orologio biologico e degli orologi biologici, nel senso che la cronobiologia, la disciplina che si occupa dello studio del tempo in biologia ma anche in medicina, un tempo quindi non semplicemente un tempo longitudinale da quando nelle varie fasi della vita, bambino, adulto, anziano, ma proprio adesso, in questo preciso momento, cosa sta succedendo? Tutte le nostre cellule, tutte le nostre funzioni non sono ferme, non sono immutate, ma si muovono, ma non si muovono a caso, si muovono con una successione regolare con cui un fenomeno si ripete nel tempo, e usiamo la parola ritmo. E quindi diventa ritmo biologico. Il capostipite, colui che determina il ritmo, il direttore d'orchestra di tutta questa bellissima cosa, è l'orologio biologico. L'orologio biologico è stato scoperto alla fine degli anni 90, inizio del 2000, da tre colleghi americani che tre anni fa hanno ricevuto il premio Nobel per questo, e si trova nel cervello, in un piccolo nucleo del cervello che si chiama nucleo soprachiasmatico. Però giustamente lei diceva non ce n'è uno solo, perché negli ultimissimi anni abbiamo scoperto che il maestro d'orchestra c'è, ma il maestro d'orchestra da solo, se non ha tutti gli artisti strumentisti di un'orchestra, potrebbe essere limitato, e allora abbiamo un orologio biologico nel fegato, uno nello stomaco, uno nel rene, uno nel muscolo, uno nella cellula del cuore, cioè ogni organo ha il suo orologio biologico che deve funzionare regolato dal suo maestro d'orchestra. Orologini. La faccenda si complica. Eccola lì. E d'altronde, se gli hanno dato il premio Nobel, vuol dire che se lo sono meritato, non era una cosa facile, altrimenti ci arrivavo anch'io. L'orologio biologico principale, quello che è nel cervello, riconosce come suo massimo regolatore la luce. In particolare l'alternanza luce-buio. Questo perché il ritmo principale, ce ne sono tanti di ritmi, ma il ritmo principale lo chiamiamo circadiano, sì, da circa diem, che vuol dire circa un giorno, presso poco un giorno, è il tempo che la Terra impiega per completare un'intera rotazione sul proprio asse, e quindi avremo delle ore in cui siamo di fronte al Sole, altre in cui siamo lontani dal Sole, quindi la luce e il buio sono il sincronizzatore principale del nostro orologio biologico. La luce arriva all'occhio, arriva alla retina, come sappiamo, però esiste anche una via indipendente dalla via della visione, quella che ci fa riconoscere i colori, le persone, c'è un'altra via più vecchia, ancestrale, che conduce proprio solo lo stimolo luce sì, luce no, molto più rude. Sì. Questo sì no arriva a questo piccolo nucleo del cervello, gli dà questa informazione come fosse un interruttore proprio. Se c'è la luce, fra le tante azioni, viene bloccata la produzione della melatonina, che è un ormone che serve per fare aiutare l'organismo invece a dormire, a riposare, e quindi luce vuol dire stai attivo. Certo, un po' se come l'interruttore, luce, le ha detto, si accende e si spegne. È proprio un interruttore, e quindi questo on-off dice stai sveglio oppure dice adesso devi riposare. Professor Manfredini, ci sembra tutto chiaro, ma che ricadute hanno queste scoperte? Sostanzialmente le ricadute sono infinite, perché non è una disciplina nuova, cioè non è un altro modo di intendere la medicina. Questo deve essere chiaro, non è una medicina alternativa, è una nuova. Lei la dice così, ma professore, io mi ricordo le prime puntate, ancora a Essere Benessere, quindi si parla quasi di preistoria, in cui lei veniva a raccontarci dei bioritmi, di gufi all'odole, e io mi ricordo gli ascoltatori mi scrivevano cercando una sorta di legame anche con l'astrologia, un po' con la magia. Invece noi abbiamo imparato da lei che è tutto rigorosamente scientifica, è una disciplina, è una branca della medicina, la cronobiologia, che studia proprio i ritmi che regolano il nostro organismo, le funzioni. Quindi è assolutamente così, anzi i primi tempi, se vogliamo, chi si occupava di questa scienza, di questa disciplina, un pochino diciamo che è stato un pochino preso in giro, ecco. Oppure un po' confuso con le letture magari su qualche rivista in cui il famoso bioritmo dipende dalla data di nascita, e in base alla data di nascita le persone hanno un bioritmo dell'amore, del lavoro, sì, della fortuna, del successo con le stelline. Ecco che, però, diciamo che avrebbe questo, anche il suo perché e il suo bello, però ahimè non è così. È anche simpatico, ecco. Infatti, però diciamo che con la scienza non ha niente a che vedere. No. Uno distingue gli argomenti, poi per carità è simpatico che vado a vedere pure io se quel giorno c'ho 4 stelle o 3 stelle, ma non c'è assolutamente niente con la scienza. Qua invece mi chiedeva quali sono le ricadute, proprio sì, perché adesso sappiamo che ogni cellula, ogni organo, ogni costituente della vita, e questo non è solo nell'uomo, è in qualunque animale, nelle piante, qualunque essere vivente, ha questa regolazione secondo un massimo e un minimo nell'arco, per esempio, della giornata o del suo periodo. Quindi tutte le funzioni anche biologiche, fisiologiche, risentiranno di questo massimo e di questo minimo. L'interpretazione che si dà alle analisi biochimiche, a quello che succede nella giornata, a come poter essere più prestazionali in alcune discipline, per esempio dello sport, a come cercare di preservare la salute dal punto di vista della prevenzione. Ecco, diciamo che in tutti questi campi è prepotentemente entrata lo studio dei ritmi biologici. Insomma, una scienza che ci dà ragione e ci piace, perché tutti noi abbiamo sperimentato che nell'arco della giornata abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo su e i momenti in cui ci sentiamo un pochino, no? Un pochino più giù a livello di attenzione, a livello proprio di stato di benessere. E adesso è tutto chiaro, cioè nero su bianco, professore. Ma gli studi della cronobiologia non si fermano qua, proprio sulla base di questi, del funzionamento dei ritmi, e abbiamo dedicato delle bellissime puntate insieme a lei. Grazie alla cronobiologia sappiamo anche il momento migliore per assumere alcuni farmaci, ad esempio. Beh sì, diciamo che il momento di assumere alcuni farmaci deriva da due dei concetti che abbiamo detto prima. Da una parte che le funzioni del nostro organismo oscillano, quindi per esempio anche le reazioni biochimiche, da una parte di lavorazione, di trasformazione, ma anche di detossificazione di alcuni farmaci, hanno un momento in cui è meglio e un momento in cui è peggio. E quindi da un punto di vista, diciamo, farmacologico o farmacocinetico. Dall'altro sappiamo che alcuni fenomeni patologici o alcuni momenti sfavorevoli della nostra fisiologia, per esempio il rialzo della pressione arteriosa, supponiamo, per dirne una abbastanza facile, ha dei momenti nella giornata in cui è più alto o più basso. Allora, se io ho una persona ipertesa e so che ha un innalzamento dei valori pressori prevalentemente in alcuni momenti della giornata, e so che il rischio cardiovascolare in certi momenti della giornata, per tutta una serie di coincidenze, è più alto, posso fare in modo di manovrare il mio farmaco sulla base della sua emivita, della sua farmacocinetica, certo, in modo da darlo in un orario in cui calcolo il suo effetto massimo e cerco di far arrivare l'effetto massimo nel momento in cui il massimo è rischio e il massimo è bisogno. Un po' un gioco di cesello per far sì che vado a colpire con l'arma al massimo della sua efficacia nel momento in cui l'obiettivo è lì che mi aspetta, e cerco di fare meno effetto collaterale e più effetto positivo, e questo vale un po' in generale per tanti farmaci. Per questo, professor Manfredini, intanto che la sentivo raccontare, spiegarci un po' tutti questi meccanismi, mi è venuto un po' il titolo che potremmo proporre ai nostri appuntamenti, perché lei verrà a trovarci in quest'estate, e potremmo, che dice, se sappiamo come funzioniamo, funzioniamo meglio. Assolutamente. Ecco, questa è un po' la sfida. Il professor Manfredini ci accompagnerà e quindi prenderemo in esame il mattino, si dice che ho l'oro in bocca, andremo a vedere, poi c'è il pomeriggio che inizia con quell'abbiocchino postprandiale e che viene anche quando non mangiamo, non so, a me viene proprio, mi cala la palpebra, poi c'è la sera, la presera, ecco un po' il momento in cui i ragazzi prendono il famoso happy hour, e poi c'è la notte. Allora, attraverso mattino, pomeriggio, sera e notte, il professor Manfredini ci farà capire quali sono i momenti da sfruttare, perché se so come funziono, funziono meglio. Professor Manfredini, che dice? Ho sintetizzato o mi sono allargata troppo? Ho capito che mi aspetto l'estate di corvée, bene, grazie. Professore, allora si prepari, sincronizzi i suoi orologini, tanto il mattino va bene, mi sembra, no? Per le attività un po' creative, di intelligenza? Sì, anche dal punto di vista psicocognitivo, nelle nostre psicocognitivo. Allora, psicocognitivizziamoci ogni appuntamento, quindi, con il professor Manfredini. Abbiamo aperto oggi, ma lo ritroveremo. Grazie, professore. Buon lavoro. Buongiorno a buon voi tutti, grazie. E dorma preoccupato. E a proposito di tempo, andiamo insieme ad un grandissimo scrittore che è anche medico a scoprire quali sono stati i personaggi che, grazie ad un'intuizione, grazie al loro lavoro di ricerca, hanno fatto fare dei passi avanti alla ricerca in medicina. Adesso andiamo a spasso nel tempo con Andrea Vitali. Andrea, benvenuto. Senti un po' cosa ti abbiamo preparato. Sentito, sigla di grande impatto. Ecco, perché? Perché per i prossimi 5 lunedì noi staremo insieme per attraversare la storia della medicina e raccontare, questo lo farai tu, come possiamo dire, delle storie curiose, delle intuizioni che hanno cambiato e segnato la storia della medicina. Andrea, lo scrittore sei tu, pure medico, sì. Come possiamo definire? Direi sì, insomma, non sono ovviamente tutte le grandi scoperte della medicina, ma alcune estremamente importanti e che hanno, diciamo, dei particolari curiosi. Siamo un po' nel dietro le quinte di alcune scoperte che hanno modificato veramente la medicina e la cura di alcune malattie dell'umanità. Quindi posso mettere il titolo così: le più importanti scoperte della medicina raccontate da Andrea Vitali. Andiamo. Se diciamo cuculo, il pensiero non può che correre all'uccello dal malinconico canto e alla deplorevole abitudine di abbandonare il proprio uovo dopo averlo deposto, affidandolo alle cure altrui. Il britannico Edward Jenner ne studiò a fondo lo stile di vita e ciò gli meritò l'onore di essere ammesso alla prestigiosa Royal Society. Ma non per questo, sebbene ragguardevole studio, il dottor Jenner appartiene al gotha della medicina. piuttosto perché lo possiamo considerare una sorta di padre di uno strumento a cui tutti, soprattutto di questi tempi, anelliamo. Parola magica, il vaccino. Andrea, scopriamo la storia del britannico inventore del vaccino. Raccontaci tu qualcosa un pochino più sfizioso di lui. Sì, beh, la cosa singolare è che lui sia entrato nella Royal Academy britannica per questi studi sul cuculo e non per uno studio molto più importante, che è quello che poi ha portato, diciamo, alla scoperta, all'invenzione del vaccino. Il dottor Jenner era un uomo assolutamente curioso, un naturalista nato nelle campagne di Berkeley e si fece medico di campagna perché amava appunto la natura, ma grazie a questa sua attività in campagna ebbe un'intuizione fondamentale quando notò un tipo particolare, diciamo, di vaiolo che affliggeva i mungitori di vacche delle campagne. È da notare che anche lui in gioventù ebbe il vaiolo e ne guarì. Che tra l'altro, osservando, diciamo, questi mungitori, ebbe un'intuizione fondamentale che mutò il modo, diciamo, di curare il vaiolo in quei tempi, che era una malattia che massacrava le popolazioni di allora. Cioè sostituì la cosiddetta variolizzazione, che consisteva nell'iniettare materiale infetto di origine umana da individui affetti da una forma di vaiolo non molto grave in altri soggetti per proteggerli dalla malattia. Lui sostituì questo tipo di procedura e, come dire, creò anche un po' di scandalo, perché i parrucconi della Royal Society non credettero, cioè ritennero questa procedura troppo innovativa, rivoluzionaria e anche pericolosa, e invece fu tutt'altro. Insomma, una svolta, Andrea. Sì, una svolta fondamentale perché lui cominciò a utilizzare invece preparati di esseri umani affetti da vaiolo vaccino. E questo fu il sistema migliore per proteggere meglio gli esseri umani dal vaiolo invece nella sua forma caratteristicamente umana. Ovviamente nessuno, come dicevo, credette che questo potesse essere un procedimento rivoluzionario. E a questo punto si introducono, cioè, i francesi che mettono il becco un po' dappertutto, questo lo possiamo, non sono cambiati nel tempo, ecco. Non sono cambiati nel tempo, sono perfettamente d'accordo con te. Basti dire che loro assunsero questo tipo, diciamo, di procedimento, sorridendo un po' nei confronti, diciamo, del termine vaccino, come se fosse un termine scurrile, però utilizzando, diciamo, le metodiche avviate dal dottor Jenner. Andrea, allora la storia insegna che? E la storia insegna che tutto sommato esiste una giustizia sovrumana, diciamo, che supera la giustizia di noi terricoli, perché è merito proprio di un francese notissimo, Louis Pasteur, rimettere un po' in sesto le cose e ridare a Cesare quel che è di Cesare. Bisogna ricordare che Pasteur già era riuscito a debellare il carbonchio nell'animale proprio con una procedura di inoculazione copiando quello che aveva fatto Jenner qualche anno prima. E lo stesso Pasteur riabiliterà la figura, anche se non ha bisogno di riabilitazione, ma ridarà appunto a Jenner i meriti che lui si è conquistato in vita qualche anno più tardi, affiancandosi, diciamo, al suo nome, quando finalmente riuscirà con i suoi studi a produrre un secondo vaccino estremamente importante, un vaccino virale in questo caso, importantissimo nella storia della medicina, perché è quello contro la rabbia, che anche quello che era una malattia che rispetto, diciamo, a oggi colpiva frequentemente, una malattia estremamente brutale e pericolosa che in la maggior parte dei casi portava a morte chi la contraeva. Quindi i due insieme funzionavano molto bene. Sì, esattamente, pur se in epoche diverse si sono dati una mano, cioè credo che l'insegnamento della storia stia proprio in questo caso, in questo senso. Non esistono confini quando due scienziati, insomma, si collaborano, pur se a distanza, oppure quando uno scienziato utilizza le intuizioni di un altro per mettere a punto dei metodi di cura, come è il caso del britannico dottor Jenner e del francese dottor Pasteur. Quindi questa è una modalità di collaborazione che è proprio tipica della ricerca anche oggi, Andrea. Assolutamente, in maniera particolare proprio oggi, in cui si è alla ricerca, diciamo, di un vaccino che possa debellare questo benedetto coronavirus. Sono notizie recentissime di sperimentazioni che fanno ben sperare per il futuro. Esiste, diciamo, questo vaccino in fase sperimentale che per intanto ha dimostrato di coprire dal punto di vista anticorpale a 50-60 giorni dall'inoculazione. Si spera, diciamo, che questo periodo di copertura si allunghi addirittura in maniera, diciamo, indefinita, in modo da poter respirare liberamente dopo i mesi che abbiamo avuto alle spalle. Andrea, noi ci risentiamo lunedì? Assolutamente sì, ben volentieri. Per nuove entusiasmanti avventure e scoperte. Esatto. Grazie ad Andrea Vitali, grazie a voi, a Carmelo Lauricella che è in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi che è in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani, sempre alle 11, Obiettivo Salute in vacanza con voi. A domani.